la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo lunedì 4 dicembre, sono le 16:07 primi, 58, 59, 8 primi praticamente. In diretta vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto Oscar Giannino e vi dice di che cosa parliamo oggi. Lo spunto sono due belle pagine piene di dati e di testimonianze pubblicate dal quotidiano La Stampa di Torino. L'argomento è: quanto poco si può venire pagati, perdonatemi, lapsus che ha a che vedere con il mio figlio piccolo oggi, va bene, scusatemi, quanto poco, ripeto, si può essere pagati per lavori a tempo nel nostro paese, camerieri, badanti, eccetera, eccetera, senza che siano rispettate le paghe minime orarie di settore. E racconteremo un po' dei dati e degli esempi fatti dalla stampa oggi. Ci aggiungeremo una riflessione sul fatto ordinamentale, per così dire. Sapete che noi nel nostro paese, a differenza di tanti altri paesi avanzati, non abbiamo un vero e proprio salario minimo nazionale, statale, locale, varia. Le forme del salario minimo variano nei paesi che li adottano secondo diverse tipologie. Noi abbiamo un salario minimo contrattuale, quindi legato agli oltre 200 contratti che esistono nel nostro paese. E il problema però è, come vedremo, che questa forma, a cui i sindacati hanno sempre tenuto molto, significa che una parte molto rilevante del totale di coloro che sono occupati in realtà non ne sono coperti, uno, due, e poi i dati dicono che in ogni caso anche nei settori dove dovrebbe essere garantito il salario minimo contrattuale non viene rispettato. Allora la domanda diventa: prima descriviamo il fenomeno, secondo ricordiamo come funziona, terza la domanda diventa: che cosa questi dati ci dicono? Cosa dovrebbero indurre a fare il legislatore in un quadro di politica del lavoro che dovrebbe essere contrassegnato, lo ripeto per la 177esima volta, dalle politiche attive più che passive? Cioè, è chiaro che viviamo in un mondo di transizione del lavoro con periodi ricorrenti tra occupazione, perdita di occupazione, trasferimento verso occupabilità a più alto valore aggiunto, formazione, necessità di formazione, strumenti che dovrebbero sostenere il reddito in queste fasi di transizione obbligatoriamente vincolate alla formazione e poi all'occupabilità, cioè a forme di matching tra domanda e offerta per la ricollocazione. Sapete che noi abbiamo storicamente invece un sistema di sostegno a chi perde lavoro passivo, ecco, e questa roba rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro attuale purtroppo è il passato remoto. Ma a maggior ragione però la domanda vale, e quindi la richiesta di telefonarci 800 24 0024 per testimoniarci se voi stessi, i vostri figli, conoscenti, cugini, nipoti, quello che volete, hanno duramente a che fare, perché purtroppo è una realtà che vale per alcuni milioni di lavoratori italiani, con delle retribuzioni che sono di poche centinaia di euro, perché di questo si tratta. Allora, oggi l'articolo sulla stampa è firmato da Carola Frediani e Michele Sasso e abbiamo poi però per commentare l'aspetto ordinamentale, per così dire, e per tenere conto anche della realtà comparata del nostro paese rispetto agli altri paesi avanzati, abbiamo un ricercatore, di questo si occupa perché è un ricercatore presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE, i cui interventi trovate su questo tema del mercato del lavoro molto frequenti sul sito della voce.info, cioè Andrea Garnero. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Allora, lei proprio recentemente, quest'estate, se non mi ricordo male, era agosto, ha riscritto su questo tema delle paghe minime orarie, del reddito minimo, sì, rispetto alla nostra vicenda contrattuale. Allora io mi limito a riepilogare adesso, perché non vedo il collega della stampa collegato, cioè, ma non me l'avete scritto, questo è il problema. Buonasera a tutti. Cioè, ci sei, ecco, Michele Sasso, perché non me l'avevano scritto sul video, quindi io non avevo la scritta. Michele, prima di sentire Andrea Garnero, vediamo nel bel servizione che avete fatto oggi con questa modalità che a me piace molto della stampa, di fare queste doppie pagine di approfondimento con infografica. Qual è la realtà che descrivete? Partiamo un po' anche dai numeri della grande tabella che avete messo. Sì, è una realtà, è una discesa negli inferi del lavoro. Noi l'abbiamo definito i lavori low cost. Lavori low cost perché si parte da uno stipendio minimo di 400-500 euro al mese per poi salire. Però dove, come dice giustamente Garnero, non ci sono anche il contratto. Questo voglio sottolineare, queste sono tutte persone che hanno un contratto, non abbiamo messo sotto la lente né lavoro nero né lavoro grigio, queste sono tutte persone che hanno un contratto dove però ci sono degli escamotage per aggirare il contratto nazionale, il contratto ufficiale. Beh, di che tipo? Come dice giustamente Garnero, è sufficiente non pagare mezz'ora di straordinario al giorno, oppure come ci racconta un facchino che sulla paga, sulla carta dovrebbe prendere 6 euro all'ora, quando arriva a fine mese si trova il cedolino dello suo stipendio con le ore che si sono asciugate magicamente da 210 a 140. O peggio ancora, in un momento di privatizzazione, i privati, quelli che abbiamo visto, che ci consegnano la posta, che non è più assegnata soltanto a Poste in Italia, Poste Italiane, sono di fatto pagato a cottimo. Quindi sul contratto avrebbe un lavoro ufficiale pagato come dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato dai 5-8 centesimi a busta. Quindi abbiamo fatto il conto, io ho fatto il conto, l'ho intervistato, mi ha detto: guarda, io ogni mese arrivo a 1.100 euro dopo che ho consegnato 15.000 buste. Peccato che in queste 1.100 euro devo togliere 500-600 euro per benzina e costi vari. Che sono a suo carico. Che sono a suo carico, ecco. Quindi è uno spaccato di mestieri, viene proprio mestieri da schiavi, perché quando ci si mette in auto o si va nei campi dove non c'è soltanto l'agricoltura, gli sfrattati, i dannati della raccolta del pomodoro, ma abbraccia qualsiasi settore, dalla ristorazione. Abbiamo raccontato il caso di Marco, un ragazzo studente universitario che ha un contratto regolare e fa un catering spinto, si mette in macchina e lui non sa dove lo manderanno, in giro per la Lombardia, e fa fino a 70 servizi al mese, che significa un servizio ogni 10 ore. Io ricordo che per avere un'idea di quali dovrebbero essere le retribuzioni minime, la stampa ne riepiloga parecchie, ma per capirci, se non ce l'avete presente, cari ascoltatori, stiamo parlando di 4 euro e mezzo l'ora per un operaio agricolo, 6 euro l'ora per un facchino magazziniere, uno dei casi che ha appena fatto Michele Sasso, 5,60 euro l'ora per il fattorino in bicicletta, 6,70 euro l'ora per una badante, 8 euro l'ora per un educatore, classico caso quello di un educatore in una cooperativa che ha vinto l'appalto, una gara per i servizi di educatore nei servizi che devono essere offerti dai comuni del nostro paese, 7 ore e mezzo l'ora per gli addetti alle pulizie. Ecco, la domanda che faccio a Michele Sasso, ne avete sentiti tanti perché il vostro pezzo è molto ampio. Avete chiesto, immagino, visto che in questo caso stiamo parlando di violazioni patenti, sia pure attraverso artifici, ma patenti, del minimo contrattuale previsto nel contratto, quindi non stiamo parlando di chi non è coperto dai contratti, però in questo caso avrete anche chiesto, il sindacato che fa? Il sindacato fa quello che può, cerca di tutelare, cerca di mettere una barriera. Però vedete, quando siamo di fronte a un mondo così slegato, dove gli ordini della consegna, parlo di un fattorino qualsiasi, uno dei famosi rider che vediamo sprecciare nella nostra città, l'indicazione di dove andare ti arriva attraverso un'app, tu non hai modo neanche di trovarti, non sappiamo neanche chi sono, non sappiamo neanche che faccia hanno. E quindi queste persone è difficile tenerle insieme e come dire, insieme reclamare per i propri diritti. Voi avete citato il caso della persona, dell'educatore subappalto per il Comune di Milano. Quello è uno dei casi che mi ha colpito di più, perché sembra quasi un'equazione al contrario. Questa è una persona formata, che ha fatto l'università, che insegna all'università, che fa il cultore della materia, viene pagato 8 euro all'ora con un piccolo escamotage. Quando si muove da una parte all'altra, dalle varie persone che segue, i suoi vari utenti, non è pagato. Quindi sta tutti i giorni sui mezzi, in giro da una parte all'altra della città, ma gli vengono pagate solo effettivamente quelle 3, 4, 5 ore in cui lavora con queste persone. Ecco, così è facile scaricare i costi di un servizio sugli ultimi. Il sindacato, ripeto, fa quello che può, è difficilissimo anche intercettare con queste persone. Cioè, diciamo che queste sono molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, a differenza delle violazioni che avvengono con forme di caporalato agricolo, eccetera, eccetera, però sono forme collegate di prestazioni, offerta di servizi e di lavoro in questi settori, che sono classicamente l'espressione di una realtà in forte trasformazione in questi ultimi anni, che non risponde al vecchio modello fordista, esatto. Un luogo, un tempo, esatto. Un perimetro, le tre unità che erano quasi aristoteliche del mondo fordista, e quindi la difficoltà interpretativa è il esatto. Pezzo fondamentale della difficoltà della rappresentanza, per così dire. Questo è il punto, esatto. Di fondo. Io ho chiesto a uno di questi, appunto a Marco, che fa il catering spinto, e mi ha detto, nell'ingenuità dei suoi 22 anni, il sindacato è una roba da vecchi per i vecchi, non so neanche che cos'è. Noi ci troviamo in un punto di Milano, partiamo, ci mettiamo in macchina e andiamo a fare il nostro servizio. Tutto quel tempo che lui impiega ad arrivare al posto dove deve andare è regalato, è gratis. Mi ha detto una cosa che mi ha sconcertato. Ero così stanco l'anno scorso durante le feste di Natale, dove tutti noi facciamo una cena aziendale, usciamo con i nostri colleghi eccetera, che mi sono addormentato in bagno. Mamma. E il mio capo mi ha cronometrato il tempo che ho perso e non ho impiegato durante il servizio. Questo mi ha colpito, perché è un mondo dove non ci sono più regole, come scriviamo. No, è un mondo nel quale sì, infatti è poco da fare, è così, cioè nel senso che i margini per dare servizi al cliente con prezzi di maggiore competitività si realizza però innanzitutto con una compressione oltre il contratto, quindi oltre la legge, di ciò che è la remunerazione del capitale umano, e questo prescinde anche dalla qualità del capitale umano, cioè da quanti anni sono stati spesi con quei studi a formarlo, altra sottolineatura di un paese che non è poi per i laureati. Allora, questa è la terribile ma veritiera fotografia di quello che avviene. C'è anche una tabella con le percentuali sulle due pagine della Stampa, dicendo violazione delle paghe minime orarie di settore stimate, cioè qual è la percentuale dei lavori sottopagati rispetto a quello che prevede il contratto. In agricoltura 31%, nelle attività domestiche 38%, nella ristorazione e hotel 20,6%, nell'educazione 15%, commercio al dettaglio 11,8%, salute 8,2%, trasporti 7,9%, come vedete percentuali importanti, ma quelle alte sono a doppia cifra. Allora, Garnero, visti questi dati, ci dobbiamo aggiungere poi il totale dei lavoratori, che poi è al di fuori degli oltre 200 contratti che esistono, ma per entrambe le tipologie, se andiamo a vedere nei paesi avanzati come stiamo messi, che cosa c'è da imparare, che cosa si potrebbe realisticamente fare dai dati che voi elaborate all'OCSE? Dei grandi temi attuali, sia a livello macroeconomico che quello microeconomico, la questione dei salari, o in tutti i paesi europei e anche americani, è il dibattito del momento. Abbiamo anche assistito a Draghi, che ha detto ai sindacati tedeschi che devono chiedere di più, chiedere salari più alti, per questioni di inflazione e di stabilità macroeconomica, ovviamente non tanto riferito al benessere dei singoli lavoratori, ma ovviamente questo poi, diciamo, ha implicazioni macroeconomiche, ma si riflette anche su il benessere reale percepito dei singoli lavoratori. Quindi questo è un tema che tocca sicuramente tanti paesi OCSE. In secondo luogo, tutta la questione riguardante le nuove forme di lavoro, il cosiddetto futuro del lavoro, il ruolo della tecnologia, della globalizzazione, ma anche dell'invecchiamento, soprattutto per un paese come l'Italia, e che impatto ha sul mercato del lavoro, sia in termini di servizi che si domandano, ad esempio tutti quelli legati all'invecchiamento ovviamente richiedono un aumento di tutti i servizi di appunto servizi alla persona, che spesso sono poco qualificati, sempre un po' al confine tra nero e grigio e bianco, mal codificati, poco sindacalizzati di certo, e quindi anche più esposti a potenziali sfruttamenti. E poi appunto i temi più famosi all'ordine del giorno d'Italia, i rider delle varie piattaforme. Sì. Però comunque voglio dire, c'è anche una caratteristica che resta italiana rispetto a quello che avviene nel mercato dei lavori in questo periodo di ripresa europea più solida, in via di consolidamento in alcuni paesi maggiore che da noi. Però il problema è che noi nell'ultimo anno abbiamo avuto quasi il 90% di incremento degli occupati, sono tutti a tempo determinato, poco più del 10% quelli indeterminato. Se guardiamo altri paesi è l'esatto opposto, cioè in Germania la quasi totalità degli occupati aggiuntivi sono a tempo indeterminato, e comunque anche in Spagna la metà sono a tempo indeterminato, da noi sono il 10%, cosa che non aiuta ulteriormente oltre a tutti i temi che lei ha già citato. No, esatto. Questo è forse più i contratti, chiamiamoli di vecchio stile, che rimangono per fortuna sempre dominanti, certo non sono quelli dei fattorini varia forma, però è vero che c'è una peculiarità italiana in questi mesi che viene molto discussa anche nel dibattito, di un aumento importante dei contratti a tempo determinato, soprattutto un po' curioso rispetto al disegno del Jobs Act, che era quello di rendere il contratto a tempo indeterminato il contratto prevalente, addirittura in alcune forme prima lo si chiamava contratto unico, ma comunque quello doveva diventare il contratto prevalente. È un po' curioso, quindi merita sicuramente di essere studiato, anche perché ora il governo pensa ad eventuali aggiustamenti, i vari partiti chiedono aggiustamenti, reintroduzione di articolo 18, indennizzo di licenziamento più alti, se quelli sono i fattori determinanti o se sono altri, e quindi come intervenire. Io devo dire che l'articolo 18, visto che poi la vasta platea di chi era assunto prima resta, ne resta tutelato, e anche casi recenti che sono finiti sui giornali erano comunque di persone che avevano l'articolo 18. Ma detto tutto questo, a me pare che per la questione dei salari la mia prima domanda è, che faccio a Garnero, non è che per caso questa impostazione tradizionale a cui sono stati per tanto tempo fedeli le associazioni datoriali e i sindacati del minimo contrattuale è superata e dobbiamo adottare invece un minimo universale? C'è una tonnellata di letteratura, lo dico per chi ci ascolta, di cui non abbiamo tempo di occuparci, sugli effetti, le esternalità negative, come si dice in senso tecnico, di un salario minimo nazionale universale, perché può, tra virgolette, in paesi che hanno forti sostegno al reddito, in caso, cioè un welfare forte di sostegno al reddito in caso di perdita di occupazione, distogliere dall'occupabilità. Ecco, non è esattamente il nostro paese, però cominciamo di qua. Garnero, ha senso questa domanda? È quello il modello verso il quale andare? Il modello dei contratti collettivi settoriali può funzionare, funziona molto bene in altri paesi, a patto che ovviamente sia solido, le organizzazioni datoriali, quindi diciamo la Confindustria e le organizzazioni sorelle, Confartigianato eccetera eccetera, e i sindacati da un'altra parte, siano solidi, nel senso rappresentino un gran numero di lavoratori non pensionati, un gran numero di imprese, grandi, piccole e medie, e quindi sia in grado di negoziare privatamente e portare soluzioni in qualche modo bilateralmente tra le due parti ai singoli problemi. E ci sono esempi molto interessanti anche sui temi di strettissima attualità. La notizia di stamattina, leggevo di Vico sul Corriere, che nell'accordo sulla logistica si inserirebbe la figura dei rider, dei fattorini. Benissimo, questo è un esempio chiave e interessante di come la contrattazione collettiva sappia rispondere in maniera flessibile e adatta a ogni singolo caso a dei problemi anche nuovi. Quindi la questione dei rider, dei fattorini, non credo che sia particolarmente codificata dalle leggi, non lo deve per forza essere, non lo può essere regolata a livello settoriale, però ha bisogno di due parti in causa, quella dei lavoratori e quella, ma anche dei datori di lavoro, e direi anche quasi soprattutto dei datori di lavoro, che vogliono sedersi intorno a un tavolo e negoziare e regolare la questione, e allora lì si possono trovare delle soluzioni adeguate. Se invece questa volontà non c'è, o le organizzazioni sono assenti, perché i sindacati ormai non hanno più iscritti, almeno tra i lavoratori, e le associazioni datoriali anche pochi iscritti, oppure non hanno la volontà di sedersi al tavolo, a quel punto il sistema incomincia a diventare una sorta di groviera, come quello italiano, apparentemente solido dall'esterno, in cui sì, la copertura formale, se guardiamo le statistiche internazionali, è alta tra l'80 al 100%, perché con l'articolo 36 della Costituzione tutti sono coperti, quindi formalmente dal di fuori il sistema è solido, ma poi se si apre, si guarda all'interno, appunto è una forma di Emmental in cui è pieno di buchi, in cui si sono infilate casi specifici e appunto tra il legale e l'illegale, che permettono di pagare fuori dai contratti, pagare meno, orari diversi, condizioni lavorative che non sono quelle negoziate, che possono essere appunto, non c'è solo la questione dei salari, lo diceva bene Michele Sasso prima, c'è anche la questione appunto di retribuire gli spostamenti, ad esempio, che può essere molto importante e far grosso la differenza su una giornata di lavoro. Però appunto questo è causato da un sistema che non è più solido, e quindi se il sistema non è più solido, a quel punto lì discutere minimo nazionale, come esiste nel 90% degli altri paesi del mondo, può porsi, è una questione che ha legittimità di porsi. Poi perché ci sono, adesso mi corregga se sbaglio, sì, infatti ci sono mille problemi, ma un minimo nazionale, che significa naturalmente che il minimo è considerevolmente basso, per essere chiari, non è che sia altissimo, però in molti dei casi documentati per esempio stamattina da Michele Sasso e da Carlo Alfrediani sulla Stampa, sarebbe superiore a quello che si riduce a essere, è vero Michele, il reddito vero che resta nelle tasche di quelli che avete documentato, Michele? Sì, la drammatica notizia è che rimane ben poco in tasca a questi lavoratori. Un altro esempio che abbiamo raccolto in questo lavoro di inchiesta sulla Stampa è che anche chi lavora tanto, che una volta aveva un lavoro minimamente tutelato come l'autista, che si mette in tasca 1.400 euro al mese, sta sulla sua cabina più tempo che quello che passa con i propri familiari. 1.400 euro, ricordiamoci che è quasi lo stipendio di un bidello, non stiamo parlando appunto di stipendi da meno. Questo devo dire a questi microfoni lo sappiamo bene, perché una parte del nostro campione di ascolto è solidamente fatto da chi lavora guidando, e tante volte è capitato anche recentemente di parlare di che cosa significa al netto quei 1.300-1.400 euro contrattuali, visto che si mangia sempre fuori due volte al giorno per i camionisti, e soprattutto anche valutare che è un settore poi in cui moltissimi, in realtà tutti quelli che vengono dall'est e così via, non sono contrattualizzati, quindi c'è una fortissima pressione poi al ribasso ulteriore e a stare fuori dal contratto, perché si somma anche questa componente oltre al rispetto dei minimi. Certo, ma poi in un paese dove l'85% delle merci si vanno su gomma, come dire, l'ultimo anello della filiera, esatto, l'ultima persona è quella che subisce questa contrazione di costi, no? E quindi con un'economia che rallenta, loro paradossalmente sono costretti ad accelerare per fare fino a 40-50 consegne al giorno e mettersi in moto alle 5:30 del mattino e tornare a casa alle 9, alle 10 di sera. Risultato, questa persona che abbiamo intervistato, che è una seconda generazione italiana che vive in provincia di Brescia, spesso dorme in cabina o accoglie la sua fidanzata nella sua stessa cabina, quindi è anche un cambiamento radicale anche dei luoghi di lavoro. No, certo. Prima mi chiedevate come fa il sindacato a intervenire. Negli ultimi anni abbiamo visto il sindacato che si è fatto sindacato di strada per combattere il caporalato nei campi dell'agricoltura. È difficile però raggiungere tutte queste migliaia di lavoratori polverizzati che girano per le nostre città, infatti, per il nostro paese. E questo è il punto poi, che è un pezzo del problema posto da Garnero, quindi quando dice sessione datoriale dei sindacati, però ci sono lavori pulviscolari, dalle modalità pulviscolari, e quindi la cosa diventa complessa. Quindi secondo me bisogna un po' cambiare l'ottica del welfare e aggiungere in modalità diverse. Tanto è vero che adesso, nel ringraziare per quello che fanno Michele Sassa e tutti i suoi colleghi della Stampa, ma per l'articolo di cui stiamo parlando oggi, perché adesso stiamo andando a una pausa. Dico subito a Garnero, cerchiamo di riflettere su che cosa sarebbe utile aggiungere, perché molti di questi poi restano incatenati a prospettive di questo tipo. Le testimonianze che tutti raccolgono sono di anni e anni così, senza un orizzonte successivo. Forse nel welfare delle politiche attive degli altri paesi ci sono molti esempi a cui ci dovremmo ispirare. Allora, con Garnero riprendiamo da qui e adesso intanto andiamo a vedere cosa succede in borsa, un po' di pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornare in diretta. Nel frattempo, purtroppo, il tempo è passato. Andrea Garnero ci ha dovuto abbandonare, quindi mi rispondo da solo citando da un articolo che nella forma più diffusa trovate su lavoce.info il 1 dicembre, protegge i lavoratori, non i posti di lavoro, in cui c'è un esempio secondo me utile. Ecco, quando parliamo di politiche attive del lavoro, noi dovremmo rapidamente tentare di volgere la testa non solo a quanto NASPI e per quanto tempo al posto della cassa integrazione, ma per esempio a cose tipo il conto personale di attività, che è in vigore in Francia in realtà solo dall'inizio di questo anno. Che cos'è? È una specie di conto che accumula diritti in termini di formazione, supporto a un progetto di valutazione delle competenze ricorrente nel tempo, che vale per, in particolare è iniziato per alcuni lavori usuranti, cioè ed è la classica risposta, per esempio, che tutti mi chiedete quando dice: cosa dice Giannino quando dice che bisogna alzare l'età per l'equilibrio dei conti previdenziali? Come fanno gli altri paesi quando io dico hanno adottato dei criteri, per esempio, che consentono di tenere conto della lunghissima durata della continuità contributiva, cioè attività lavorativa quando gli anni passano e non si svolge più la stessa attività? Ecco, per esempio, la Francia si è dato questo conto personale di attività, che serve esattamente a questo, e contempora anche forme part-time, eccetera, eccetera, con formazione, che sono coerenti a una delle caratteristiche del nostro mercato del lavoro, cioè quella di vedere il maturare dei requisiti per gli assegni di vecchiaia sempre più avanti nel tempo. Però l'idea è quella di estendere nel tempo in Francia a tutti coloro che poi sono licenziati, come strumento fondamentale per dare una dote nella riformazione e per la nuova occupabilità, compresi i lavoratori autonomi. Quindi, per esempio, faccio solo questo esempio, si chiama conto personale di attività, che secondo me è una idea a cui guardare, invece che continuare a fare le polemiche sugli effetti solo del Jobs Act, che le politiche attive non, sottolineo 4 volte, non le ha toccate. Allora, sempre nella stessa pagina della Stampa c'era un colonnino che diceva: il Natale precario di commesse, operai, scaffalisti e promoter, perché citava la stima di Assolavoro, per la quale ci sono molte migliaia di posti di lavoro che sono nel periodo clou delle feste, che servono chiaramente per rafforzare quei servizi che sotto le feste, a cominciare dai supermercati, il commercio, le consegne e così via, vanno a un punto di picco in quelle settimane. E naturalmente è il classico problema anche qua di incrociare una domanda di lavoro che, visto il numero di disoccupati, di sottoccupati, resta molto elevata, è un'offerta di lavoro che a quel punto è concentrata e chiaramente a tempo, rispetto poi alle qualifiche che davvero ci sono sul mercato del lavoro. Classico fenomeno che porta alla frustrazione della overcapacità di formazione accumulata rispetto a quello che poi il mercato del lavoro ti offre davvero nel nostro paese, perché il nostro è un mercato del lavoro in cui troppi pochi hanno istruzione terziaria e post terziaria, e contemporaneamente chi ce l'ha subisce il fatto di essere spiazzato per l'offerta concreta di lavoro con cui deve fare i conti, e con la retribuzione oltre che con la durata. Allora, per parlare specificamente di questo, abbiamo con noi Francesco Verbaro, che è presidente di Formatemp. Formatemp è degli strumenti che si avvale, dal punto di vista anche delle risorse per il tipo di servizio che svolge, di una contribuzione che gli deriva proprio alla finalità che persegue. È vero, Verbaro? Sì, buonasera, grazie. Allora, sì, ci spiega innanzitutto, prima di tutto, cosa fa Formatemp? Guardi, quando è stata introdotta la somministrazione in Italia, è introdotta molto più tardi che negli altri paesi, cioè nel 1997, è stato deciso detto che la somministrazione dovesse costare un po' di più, con una contribuzione aggiuntiva oggi del 4%, sì, per poter finanziare una cosiddetta formazione, esatto, che dovesse, che doveva soprattutto accompagnare le transizioni, accompagnare questi lavoratori che venivano chiamati per delle missioni, per passare da una missione a un'altra e per poterli rendere sempre occupati. E quindi l'obiettivo, la missione principale di questo fondo è quello di assicurare la formazione dei somministrati, dei candidati a somministrazione, per renderli sempre occupabili e per fare in modo che, pur essendo somministrati temporaneamente, sono comunque, hanno sempre una continuità nella disponibilità. E di quanti vi occupate? Beh, siamo intorno a 400.000 lavoratori l'anno, non pochi. Abbiamo una contribuzione di 282 milioni di euro. Aspetti però, perché dobbiamo richiamarla perché si sente poco. Io intanto mando un ascoltatore, Verbaro, la attacca e la richiamiamo immediatamente. Marco da Cremona, Marco. Sì, buonasera Giannino. Eccoci. Allora, volevo evidenziare la situazione di queste cooperative che subentrano nelle aziende, in settori e in reparti che vengono chiusi per mobilità. E la cosa ridicola cos'è? Che poi questi dipendenti, magari oltre cinquantenni, che sono a casa senza lavoro, gli viene proposto di essere riassunti nello stesso ruolo, ma dalle cooperative, ovviamente con uno stipendio inferiore, certo, con zero anzianità, con la evidente impossibilità di stare a casa in malattia, perché basta che stai a casa un giorno e non ti richiamano più quelli della cooperativa, per non parlare poi magari delle ragazze giovani che, se si permettono di fare un figlio, cosa ormai in Italia lontana come un miraggio, vengono assolutamente radiate da qualsiasi lista di cooperative esistenti. Quindi siamo diventati come degli schiavi praticamente, noi dipendenti, non abbiamo assolutamente più alcun diritto, grazie anche alla cooperativa e a chi gli permette di esistere. Spesso sono vere e proprie trasformazioni delle precedenti aziende. Abbiamo avuto qualche mese fa il caso di un impianto che produceva birra in Piemonte, che era andato incontro esattamente a una modalità di questo tipo, con conseguenze abbastanza devastanti, per così dire, devastanti nel senso che è ciò che è avvenuto a una lavoratrice che poi ha perso il lavoro, ed è la signora che si è incendiata, cioè si è data letteralmente fuoco a uno degli uffici poi dell'INPS a Torino. Veniva esattamente da un'esperienza come quella che ci ha raccontato adesso il nostro ascoltatore. Allora, Verbano, una delle caratteristiche, dicevo, del nostro singolare mercato del lavoro è quello che pochi hanno formazione terziaria. Le imprese dall'altra parte richiedono formazione tecnico-specialistica che la formazione pubblica non dà, e poi magari invece c'è chi ha formazione terziaria, ma rispetto a queste offerte di lavoro resta spiazzato, perché ovviamente è molto frustrato, sia perché sono a tempo, sia perché non richiedono minimamente le qualifiche per cui si è formato. Ecco, rispetto a questo triplice ordine di problema, quello che fate voi, che risposte può dare? Ma guardi, noi la nostra risposta è quella effettivamente di dare formazione a questi lavoratori, perché effettivamente ci rendiamo conto, oggi più che mai, forse qualche anno fa prima dei dubbi si discuteva in merito a questo, l'unica sicurezza che può essere data ai lavoratori, in un mondo in cui le imprese sono temporanee, cioè i processi produttivi cambiano, e effettivamente la precarietà sta già a livello di processo produttivo, l'unica certezza che possiamo dare ai lavoratori, ma anche ad altro ovviamente, ma forse quella più importante è l'educazione, la formazione continua, per garantire quella employability, come si usa dire in inglese, quella occupabilità che passa oltre, sia con una formazione di settore che una formazione trasversale, perché oggi sono importanti anche le competenze trasversali. Sì, perché sono le skills abilitanti di fondo, esattamente. Esattamente, o le human skills che spesso mancano ai giovani e ai neodiplomati che quando entrano nel mercato lavoro mancano di quelle competenze dell'attenzione, della capacità di scrivere, capacità di leggere, sintetizzare, essere puntuali, comunicare, saper ascoltare, saper fare sacrificarsi, attendere, essere pazienti, problem solver, collaborare al clima di lavoro, insomma anche competenze cosiddette life skills, competenze di vita, diciamo così. Sì, certo. Ma a parte quelle, sono quelle anche trasversali, che sono appunto ormai considerata l'inglese e l'ICT, che sono ormai il nuovo alfabeto, quello che una volta veniva fornito agli operai con le famose 150 ore. Se ci ricordiamo cos'è stata la storia delle del diritto alle 150 ore di studio per molti operai degli anni 60, no, degli anni 50, 60, 70, gli permetteva di conoscere l'italiano, di conoscere quelle competenze minime di alfabetizzazione. Sì, sì, erano delle precondizioni, per così dire. Precondizioni, più che... esatto, e oggi le precondizioni sono appunto le competenze di inglese, perché molti modelli di gestione, di governance tecnologiche richiedono quella lingua, e anche quelle informatiche, perché Industria 4.0 richiede un'alfabetizzazione di base e anche una specializzazione ovviamente ulteriore. Ecco, cioè per capirci, io nel ringraziare Francesco Orvalli, presidente di Formatemp, quello che fa Formatemp grazie a questa contribuzione aggiuntiva specifica volta, capito, un prelievo di scopo volto a offrire questa formazione, questo dovrebbe essere considerato una delle modalità da affiancare all'estensione generale di quello che attualmente è solo un esperimento e che purtroppo sta fallendo, cioè quello del contratto di ricollocazione. Contratto di ricollocazione che dovrebbe essere il classico pilastro fondamentale di una politica attiva del lavoro, purtroppo è in forma sperimentale, cioè per poche migliaia di lavoratori, perché le risorse affidate all'Agenzia Nazionale del Lavoro, quella guidata da Maurizio del Conte, erano poche, perché più delle risorse vanno agli strumenti delle politiche del lavoro passive, cioè a sostegno al reddito e basta di chi ha perso il lavoro, mentre invece, e il bello è che sta fallendo perché molti di coloro a cui viene sottoposto preferiscono la vecchia modalità, cioè i soldi, piuttosto che i vincoli di formazione condizionati poi al dover accettare le offerte di occupabilità, altrimenti la pena è la decadenza del programma di sostegno del contratto di ricollocazione oltre un certo numero di no. Ecco, queste due cose, uno strumento che fa formazione e dall'altra parte un ponte, una nuova forma di modalità del welfare del lavoro attivo che coinvolga non solo le risorse da fiscalità generale e quelle da contribuzione, ma anche le imprese in maniera continuativa, queste dovrebbero essere i due pilastri di quelle che si chiamano le politiche attive del lavoro, che in Italia continuiamo invece a voler ignorare. Torniamo dopo aver capito cosa succede sulle strade con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Allora, sugli sms una stragrande maggioranza di pareri negativi a proposito del ruolo che possono esercitare su questo i sindacati. Uno, due. C'è chi dice però, per esempio, Cesare, però manca una E, da Vicenza, io sono contento di lavorare a Natale perché porto a casa un mucchio di soldi rispetto a quello che faccio ordinariamente. C'è chi dice anch'io lavorerò a Natale per lavori a tempo e mi perderò tutta la famiglia, i parenti, eccetera eccetera. Quindi insomma una vasta forbice di opinioni. Ci sono anche quelli che dicono sì, non dimenticatevi di dire che naturalmente l'offerta del lavoro nel nostro paese, cioè il tempo non indeterminato e così via, è ovviamente pesantissimamente influenzato dalle pretese fiscali e contributive dello Stato e dai vincoli che restano, sia pur modificato l'articolo 18, per carità, non ditelo a me, io abitualmente urlo su questo, però tra l'altro noi, malgrado il Jobs Act, oggi è uscita l'edizione 2017 dell'Indice della Libertà, cioè dell'apertura del mercato, curato da Bruno Leoni, trovate sui siti, uno su questi settori in cui si fa l'esame comparato a quello del mercato del lavoro, vedrete che noi continuiamo a essere molto più rigidi di quello che raccontiamo in termini comparati. Allora, sentiamo un po' di altre vostre telefonate, cominciando con Clara che ci chiama da Bologna. Prego Clara. Io volevo parlare dei contratti di tirocinio, che sono una vera vergogna, perché questi ragazzi vengono assunti per 500-600 euro al mese, lavorano più di 160 ore, soprattutto nella ristorazione, e alla fine, che il contratto dovrebbe portarli poi a un'assunzione, vengono o licenziati prima della scadenza del contratto, oppure gli rifanno un altro contratto con un'altra qualifica, con quindi un'altra, se prima era detto di sala, dopo lo mettono in cucina e continuano a pagarli una miseria, è una vergogna, prendono meno di 3 euro e mezzo l'ora. Allora, a questo proposito, Clara ci ricorda un'altra caratteristica. Noi, in termini comparati, per quello che riguarda le tantissime tipologie di lavoro a tempo, abbiamo in termini comparati una doppia caratteristica, che ovviamente alcuni dicono è un'anomalia negativa, altri dicono interpreta al meglio la piccola impresa italiana, che è la classe dimensionale molto più elevata che negli altri paesi avanzati, perché noi consentiamo contratti a tempo determinato fino a 3 anni, negli altri paesi è molto spesso non oltre 2, e abbiamo una soglia di replicabilità molto più elevata che altrove, cioè si possono replicare nel tempo un numero di volte che altrove è più basso. Naturalmente questo nel tempo si è evoluto perché, ripeto, abbiamo una classe dimensionale di imprese che è diversa dagli altri. Il problema è anche su questo: ha senso rimanere così o cambiarla? La replicabilità è la durata massima? Punto interrogativo. Sentiamo cosa ci deve dire Emilio, che ci chiama da Reggio Emilia, prego. Buonasera Giannino, grazie per avermi chiamato. No, niente, volevo soltanto dire che io sto anch'io cercando qualcuno da assumere nel campo del commercio come tirocinante, e naturalmente ci vengono chieste un sacco di cose. Anche al ragazzo verrebbe dato molto poco, che secondo me è molto poco, però quando vai a chiedere un ragazzo tirocinante vengono dati dei ragazzi che hanno un sacco di problemi. Noi siamo in 4, con lui serve 5, ci vorrebbe sempre uno a seguirlo. Quindi è una cosa che non ci sta da questo punto di vista. E poi soprattutto torno a ripetere il fatto che lo Stato comunque va a incidere notevolmente su quello che è il costo del personale, mentre a noi piccoli, agli altri, quelli che fanno di continuo questi super mega supermercati, secondo me tutto questo non gli viene chiesto. Comunque hanno una diversa economia di scala rispetto, come ovvio, a un'impresa come azione familiare del commercio, nel senso che è ovvio che i margini e i volumi sono completamente diversi. Se pensate a in quanti paesi, tanto per dirne una, perché non ci sono solo i contributi sul lavoro per una impresa come azione familiare commerciale, ricordatevi che noi continuiamo a far pagare ancora patrimonialmente la superficie, i mutasi dell'immobile in cui si esercita, e nella stragrande maggioranza dei paesi questo per esempio non avviene. La stragrande maggioranza è sbagliato, in molti paesi non avviene, e noi invece voi dovete fare il conto totale di tutte le richieste dello Stato alle piccole imprese italiane. Sentiamo ancora Fabio che ci chiama da Genova. Fabio. Buonasera Giannino, piacere sentirla. Senta, io come dicevo alla signora, sono un po' stufo di sentire che ci sono questi contratti che sono bassi, 3 euro l'ora, 4 euro l'ora, che non vengono rispettati. Ma è possibile che il sistema dei controlli in Italia non funziona? Dalla Consob alla Banca Italia, all'ultimo finanziere, all'ultimo vigile urbano. Lei dice è generale, infatti. È una vergogna. Ma è veramente possibile che io, in qualunque posto vado, guardi, non fanno lo scontrino. Guardi, io sono a Genova, ci sono tantissimi posti dove non si fa lo scontrino. Io faccio sempre questo esempio, se mi consente. E adesso vado un po' sul campo dell'evasione fiscale, no? Se un bar fa soltanto 10 caffè al giorno in nero, 10 sono 10 euro, no? In un mese sono 300 euro, in un anno sono 3.600 euro che non vanno sull'imponibile di questa. Però azienda. Vede Fabio, adesso mi tocca dire come faccio da qualche anno. In realtà lo scontrino, che permane come mera formalità delle scritture contabili, lo scontrino non ha più la funzione di quando fu introdotto, perché nel frattempo gli studi di settore hanno introdotto tutt'altri parametri. Quindi lo scontrino, che per carità è sacrosanto chiederlo, questo voglio che non ci siano equivoci, in realtà il non riceverlo non è una prova che chi non te lo sta dando sta barando, perché in realtà i criteri su cui dovrà essere congruo sono altri. Quello diventa uno strumento aggiuntivo, ma non è lo strumento fondamentale. Ripeto, non sto dicendo che non ci vuole, perché comunque è vigente che l'obbligo va rispettato, questo ci mancherebbe, però non è l'equivalente della fattura, ecco, la fattura ristorante o la fattura per la prestazione di un servizio. Quella sì che è invece fondamentale, ineliminabile, perché altrimenti significa lavorare in nero. Ma questa era solo una precisazione, perché io sono d'accordo con lei, i controlli nel nostro paese fanno abbastanza ridere. Noi ci preoccupiamo di fare un milione di norme vigenti e poi non ci applichiamo, ovviamente ex post, di capire ogni legge come viene applicata, se è applicabile, se lo Stato è in condizioni di farla rispettare, eccetera eccetera eccetera. Va bene, continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con me, Luca Telesi, a 24 mattine, e poi pomeriggio come oggi alla versione di Oscar alle 16:00.